2024 di Enrico Pagliarini. Alle 15:33 minuti inizia una nuova puntata di 2024. Siamo in onda dal 1999, da quando è nata Radio 24. Pochi giorni fa parlavo con un ascoltatore che ci diceva: vi ascoltavo nei primissimi giorni. Dovremmo andare a riascoltare le prime puntate per capire che cosa dicevamo, qual era lo stato della tecnologia a quel tempo. Vi ricordo le modalità per raggiungerci, per comunicare con noi. La prima è il numero verde per parlare direttamente con prima il nostro centralino, poi in diretta, per le vostre domande, le vostre considerazioni, 800 24 00 24, oppure potete utilizzare la email 2024@radio24.it o anche Facebook. Adesso accediamo alla pagina e cominciamo anche il dialogo via Facebook. Vorrei iniziare con una notizia che riguarda la presenza su internet. Abbiamo più volte parlato di domini internet, di strategie per essere su internet, e alcuni dicono, ma del resto è molto vero, se non sei su internet non esisti, se non hai un nome adeguato alla rete internet non esisti. Pensate che recentemente è nata un'azienda, e la prima cosa che ha fatto l'azienda è capire quale nome doveva darsi in base al dominio internet disponibile che corrispondeva e corrisponde al marchio di questa azienda. Beh, tutto questo per dirvi che una grande azienda nazionale che è Mediaset, tutti conoscono Mediaset, pensate che non ha rinnovato per tempo il dominio.com. Il nome è stato acquistato poi da una società che vende domini all'asta su internet, che lo ha rivenduto a un tale che si chiama Didier Madiba, che ha una piccola azienda ed è residente negli Stati Uniti, nel Delaware, stato particolare per le condizioni fiscali molto, molto agevoli, molto poco pesanti. Allora, Mediaset ha poi tentato di rivolgersi all'istituzione che si occupa degli arbitrati prima di andare in tribunale. C'è questa istituzione che si occupa appunto di riassegnare, laddove ci sono delle giustificazioni, i domini internet, ma la pratica è stata rigettata perché questo signore ha spiegato, e i giudici di questa istituzione hanno creduto alla sua tesi, ha detto di aver acquistato il dominio ad un'asta, aggiungendo che le parole media e set sono di uso molto comune su internet e non sono soggette a diritti di marchio. Questo signore vende online sistemi di backup. Probabilmente c'è chi dice che poi, quando Mediaset farà un'offerta economica adeguata, questo nome a dominio tornerà indietro. Però da qua si capisce quanto è importante occuparsi e curarsi di queste faccende. Un'altra notizia interessante, molto importante, una notizia di un paio di giorni fa, riguarda quattro grandi editori, anche il nostro, ovvero il Sole 24 Ore, il Gruppo 24 Ore, assieme a Espresso, Mondadori ed RCS, che si sono accordati per lanciare Edicola Italiana. È una piattaforma online per vendere, per gli editori, per vendere quotidiani, periodici, in formato elettronico, naturalmente per i clienti che usano tablet, computer, smartphone, per acquistare questi prodotti. Attualmente sta succedendo questa cosa, che si sta imponendo soprattutto l'edicola di Apple, ma tutti gli altri player, Google, Amazon e anche altri player digitali, stanno imponendo la propria edicola digitale. Ma certo, questo non fa piacere agli editori, che cercano quindi di rispondere con altre iniziative. Questa è una, sicuramente la più importante iniziativa in Italia per vendere quotidiani, periodici, insomma cose che oggi sono di carta ma che nei prossimi anni si trasformeranno sempre di più in bit, in cose digitali. Ne parleremo quando ci sarà poi un progetto concreto, perché adesso è arrivato l'accordo, ma tra qualche, forse mese, vedremo poi il prodotto vero e proprio, questa piattaforma, magari anche prima di qualche mese. Sono le 15:38, saluto Guido Scorza che è collegato con noi, benvenuto, bentornato a 2024. Grazie dell'invito, buonasera. Dunque, tu sei collegato con Skype, lo dico perché non utilizziamo molto spesso Skype, di solito o utilizziamo sistemi particolari per fare collegamenti radiofonici professionali con delle macchine adeguate, ma dobbiamo mandare un tecnico e installare delle linee particolari, oppure utilizziamo il telefono, così si fa normalmente alla radio, stiamo cominciando a usare anche Skype. Dunque Guido, noi ti abbiamo invitato perché tu assieme, ma poi ci dirai anche assieme a chi, hai lanciato una campagna che corrisponde anche a un sito internet, a proposito di quello che dicevamo prima dell'importanza del sito internet, www.vogliamotrasparenza.it. Che cos'è? Beh, abbiamo detto tutto col dominio, siamo coerenti con quello che avete detto sin qui parlando della vicenda del dominio Mediaset. È una campagna della società civile, una ventina di associazioni che rappresentano centinaia di migliaia di cittadini che chiedono al governo e al Parlamento trasparenza nella imminente nomina dei membri dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni, del garante per la privacy e del consiglio di amministrazione della RAI. Ecco, sono un pugno di uomini, 18 in tutto, quelli che saranno nominati da qui alla fine di maggio, dai quali dipende in buona parte la libertà di informazione, comunque il sistema di informazione nel nostro paese. Cioè, sembra importante richiamare l'attenzione di governo e Parlamento sulla circostanza che alla nomina di questi signori si provvede in maniera trasparente. Allora, a noi interessa in modo particolare la AGCOM, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e qualcuno potrebbe chiedersi, ma perché a 2024 siete interessati ad un'operazione di trasparenza per le nomine di questi quattro commissari per la AGCOM? Allora, ricordiamo innanzitutto che fino all'altro ieri, diciamo fino a ieri, le nomine avvenivano in modo un po' carbonaro, quindi da qui la richiesta di maggiore trasparenza, perché dalla trasparenza poi si possono scegliere delle persone competenti, perché facendo i carbonari il rischio di mandare degli incompetenti a gestire queste cose è molto alto. Allora, per quale motivo è importante a me che utilizzo lo smartphone, il computer, queste cose, perché mi devo preoccupare? Comunque è importante che io sappia che c'è una scadenza, che il 16 maggio termini il mandato di questi, insomma, l'AGCOM che cosa c'entra? L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni è già e sta per diventare in maniera ancora più importante il soggetto cui l'ordinamento italiano attribuisce il compito di vigilare sul rispetto della disciplina sul diritto d'autore online. Questo sin qui, da qui ai mesi che verranno, se prenderanno corpo le iniziative della stessa AGCOM e quelle della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'AGCOM dovrebbero essere attribuiti altri poteri, con la conseguenza che AGCOM si ritroverà nella posizione di dettare le regole che governeranno la permanenza online di qualsiasi tipo di contenuto. Ecco, tanto per capirci, pubblico un contenuto online e starà ad AGCOM, dietro segnalazione di chi che sia, valutare se la pubblicazione di quel contenuto è legittima o illegittima sotto il particolare profilo del diritto d'autore. Se AGCOM, nell'ambito di un procedimento sommario che si apre e si chiude in un pugno di giorni, dovesse ritenere la pubblicazione di quel contenuto prima facie illegittima, all'apparenza illegittima, potrebbe ordinarne la rimozione, o peggio ancora, se quel contenuto fosse ospitato su un sito straniero, potrebbe ordinare ai provider italiani di bloccare il traffico dall'Italia verso quel sito. Quindi, come dire, chiunque di noi utilizzi la rete, quale che sia il dispositivo e il canale di accesso a internet che sceglie di usare, dovrebbe avere particolarmente a cuore quello che rischia di accadere, quello che sta per accadere in casa AGCOM, perché in realtà è esattamente dai cinque membri, perché tanti saranno, dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni, che dipenderà in buona misura la nostra possibilità di comunicare attraverso internet negli anni che verranno. Senti, di queste cose non dovrebbe occuparsi il Parlamento invece che l'AGCOM? Questa è parte integrante di una richiesta che ormai viene da lontano, e cioè quella di chi dice nessuno ha niente contro la tutela del diritto d'autore, semplicemente sarebbe opportuno che di stabilire le regole attraverso le quali si governa la permanenza online di un contenuto, di un video, ma anche di uno scritto, sia il Parlamento e non un'autorità amministrativa. Ecco, la novità degli ultimi giorni è che la Presidenza del Consiglio dei Ministri starebbe lavorando, a quanto ha dichiarato lo stesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ad un disegno di legge attraverso il quale attribuirebbe in via definitiva proprio invece all'autorità per le garanzie delle comunicazioni il potere di dettare le regole in materia di circolazione dei contenuti online. Quindi c'è una sorta di espropriazione di questo potere, lo si toglie al Parlamento, che naturalmente potrà tornare poi a esercitarlo in momenti successivi, e lo si affida all'autorità per le garanzie delle comunicazioni. Significa appunto affidarlo a 5 persone che dettano le regole e che poi le applicano, e questa riteniamo sia, come dire, un'anomalia davvero preoccupante. Dunque, dicevo prima che ti avrei chiesto, e infatti questa è la prossima domanda, perché non è che te la sei inventata tu questa campagna, questo sito internet, vogliamo trasparenza. La scorsa settimana abbiamo parlato di questo con Juan Carlos De Martin, che fa parte insomma di queste voci che chiedono maggiore trasparenza per queste nomine, e ne stanno anche spiegando insomma ai cittadini, al pubblico, l'importanza. Allora volevo capire chi ha già aderito a questa campagna. Tra un paio di minuti adesso c'è la viabilità 2024. Riprende questa puntata di 2024, sono le 15:47 minuti. Fabio Cantadori si occupa oggi della parte tecnica. Riprendiamo, è con noi l'avvocato Guido Scorza, e dicevamo, tu assieme ad altri avete fondato questa, avete lanciato questa campagna vogliamotrasparenza.it, e quindi tutti possono andare a vedere, a leggere anche più nel dettaglio. Chi ha già aderito? Tante le associazioni, le ricordiamo velocemente: Agora Digitale, Altro Consumo, l'associazione di consumatori, ANSO, l'associazione nazionale della stampa online, l'associazione Articolo 21, DataGov Italia, a proposito dell'open data del quale parlerete più avanti, la Federazione Italiana dei Media Digitali Indipendenti, l'Istituto Italiano della Privacy, l'Istituto delle Politiche dell'Innovazione, Move On Italia, Nexa, e quindi Juan Carlos De Martin di cui parlavi, Scambio Etico, Società Pannunzio, gli Stati Generali dell'Innovazione, la Valigia Blu e Wikitalia sono le associazioni che sin qui hanno firmato ed aderito alla coalizione. Fossero state 100, non ti avrei chiesto di ricordarle. I cittadini che cosa possono fare? Perché di fronte a queste dinamiche, a queste cose, uno effettivamente dice: vabbè, ma io cosa posso fare? Noi non sappiamo esattamente cosa si possa fare. Quel che è certo è quello che abbiamo provato a fare: abbiamo preso carta e penna, abbiamo scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera, e abbiamo chiesto di invitare in Italia uno special rapporteur delle Nazioni Unite, un relatore speciale che si occupa proprio di libertà di informazione e di opinione in tutto il mondo, e gli abbiamo chiesto di averlo qui con noi durante la procedura di nomina dei membri dell'Agicom, perché faccia da osservatore, perché verifichi che siano rispettate le regole e che tutto accada in un contesto assolutamente trasparente. Abbiamo fatto di più, abbiamo già parlato con lo special rapporteur delle Nazioni Unite, che ci ha già confermato la sua disponibilità ad avviare una missione di osservazione in Italia in qualsiasi momento, anche immediatamente, all'unica condizione, perché questo è quello che richiede il diritto internazionale, che sia formalmente invitato nel nostro paese da parte dell'esecutivo. A questo punto la speranza è che il governo dei professori, quello della trasparenza, come ebbe a dire il professor Monti in occasione della conferenza stampa a seguito dell'insediamento, mantenga fede a questa promessa, voglia davvero essere trasparente e quindi non abbia nulla da nascondere, sia disponibile a che un osservatore internazionale qualificato come questo sia qui con noi a verificare che, se non altro, le regole che ci sono, penseremo più avanti a quelle che non ci sono e che governano la nomina dei membri dell'Agicom, possa avvenire nella maniera più trasparente e corretta possibile. A volte, anzi spesso, gli osservatori internazionali vengono mandati dove la democrazia scricchiola. Per la nomina delle autorità siamo in presenza insomma di una situazione del genere. Ma la nostra sensazione, come dire, da italiani spiace dirlo, però è questa, nel senso che in questa vicenda ci sono troppi segreti, troppe informazioni acquisite soltanto attraverso indiscrezioni. Ecco, basti su tutti la notizia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lavora senza che nessuno lo sappia, ad un disegno di legge, probabilmente attraverso il quale vuole rendere l'autorità garante per le comunicazioni una specie di monarca dell'informazione online, un soggetto che può scrivere legge può applicarle, è contro il principio basilare della tripartizione dei poteri, per cui c'è qualcuno che fa le leggi, qualcuno che le applica, qualcuno che le attua, cioè il governo, il Parlamento e poi il potere giudiziario. Diciamo che un'emergenza informazione, almeno per quanto riguarda il pianeta online, probabilmente in questo momento c'è. In ogni caso la richiesta non è quella di un commissariamento del paese, è semplicemente quello di consentire a qualcuno, per certo imparziale ed indipendente, di buttare un occhio qualificato per capire se davvero le cose vanno per il verso giusto o se non si possa fare qualcosa perché vadano meglio. Bene, grazie a Guido Scorza per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Buon lavoro. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Comunque, a proposito dell'importanza di quello che abbiamo detto poco fa, poi alla fine la nostra bolletta del telefono in buona parte dipende anche dalle decisioni dell'Agicom. A proposito di bolletta del telefono, sono in arrivo nuovi tagli alle tariffe applicate dai gestori di telefonia mobile in roaming, cioè quando il nostro cellulare aggancia una rete di un operatore straniero, cioè siamo all'estero. Grazie ad un accordo tra Parlamento europeo, Commissione e Consiglio, verrà approvato un nuovo regolamento che imporrà nuove tariffe in Europa. A titolo di esempio, dal 1 luglio 2012 una chiamata effettuata dall'estero costerà al massimo 29 centesimi al minuto, mentre una chiamata ricevuta costerà al massimo 8 centesimi. Si tratta di prezzi all'ingrosso, quindi va aggiunta l'IVA, che scenderanno ancora fino ai 19 centesimi per chiamata e 5 centesimi per chiamata ricevuta nel 2014. Taglio anche per SMS e traffico dati, il costo al mega scenderà a 70 centesimi a luglio 2012 ai 45 nel luglio 2013 fino, pensate, a 20 centesimi a luglio 2014. Altra novità che arriva da Bruxelles: per aumentare la concorrenza nel 2014 sarà possibile sottoscrivere un abbonamento con un operatore locale quando ci si trova all'estero, mantenendo però il proprio numero nazionale. Quindi se vado una settimana in Germania, ad esempio, potrò col mio numero fare un abbonamento con T-Mobile approfittando delle tariffe locali tedesche. Sean Harry, numero uno dell'FBI per la lotta ai reati su internet e uno dei massimi esperti dei servizi segreti americani, ha lanciato un allarme sul cybercrime, ammettendo che attualmente i criminali del web sono troppo bravi e le misure per difendersi dai loro attacchi troppo deboli. Henry si permette di dire tutto ciò perché sta lasciando l'FBI per andare nel settore privato. Secondo Henry, il settore pubblico e anche le aziende devono cambiare strategie e potenziare le contromisure contro il cybercrime. Anche in Europa siamo consapevoli del problema e da gennaio sarà operativo all'AIA, come sezione distaccata dell'Europol, lo European Cybercrime Center, che si occuperà dei crimini della rete con una trentina di specialisti che arriveranno a 50 a pieno regime, quindi ci sono anche dei posti di lavoro. Contemporaneamente il Parlamento europeo ha varato una proposta di legge per inasprire le pene contro i cybercriminali. Parliamo della Cina. Gli utenti di telefonia cellulare hanno superato in Cina, provate a dire che numero, il miliardo. Il risultato è stato ottenuto anche grazie ad un esodo dalla telefonia fissa. Sono sempre di più i cinesi che preferiscono affidarsi ai soli telefonini e abbandonano definitivamente la linea telefonica tradizionale. Ma se ascoltate spesso 2024 sapete che il cavo è sempre meglio, laddove è possibile averlo, dell'etere. L'ETSI, l'organismo europeo di standardizzazione, ha rinviato di almeno un mese il voto per decidere lo standard per la nuova nano SIM, quella che diventa ancora più piccola. Dietro al rinvio la battaglia tra Apple e Nokia per imporre le proprie specifiche tecniche. Ultima notizia, LG ha iniziato la produzione di massa di un nuovo schermo e-ink, cioè con una tecnologia con la quale vengono fatti oggi gli schermi dei lettori di ebook, che però a differenza di quelli attuali è realizzato in materiale plastico ed è flessibile. Si può flettere fino a 40 gradi e pesa appena 14 grammi, oltre ad essere più sottile del 30% rispetto ad un modello tradizionale. Bene, noi ci risentiamo tra qualche minuto, parleremo di Open Data. Che cosa sono? Sono molto importanti, se ne sta parlando molto in queste settimane, allora vi aspettiamo tra poco. Vi ricordo il nostro numero verde per intervenire, per le vostre considerazioni, per le vostre domande, 800240024, oppure potete anche andare su Facebook nella nostra pagina per proporre una vostra considerazione, ma sapete che noi preferiamo sempre sentire la vostra voce. Tra qualche minuto, dopo le notizie di GR24. 2024. Siamo in onda di nuovo, la seconda parte di 2024 alle 16:07, una manciata di secondi. Io sono Enrico Pagliarini, Fabio Cantadori si occupa della parte tecnica. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi anche durante la settimana. Sono sempre molti gli ascoltatori che si riascoltano la puntata e durante il mercoledì, il giovedì fanno un po' di riflessioni, allora ce le scrivono. Tentate di essere sintetici, fate l'esercizio che ci insegnavano alle elementari, alle medie, forse anche un po' dopo, quello del riassunto. Quindi scrivete le vostre cose, poi riassumetele, così facciamo prima a leggere e cerchiamo anche di rispondere. 2024@radio24.it. Adesso siamo in onda, il nostro numero verde se volete chiamarci in diretta, 800240024, per parlare di Open Data. E uno si domanda: che cosa sono gli open data? Che cos'è questo argomento? Beh, la traduzione è molto semplice. Dati, siamo in un mondo dove la produzione di dati, grazie anche al mondo digitale, è esplosa negli ultimi anni e crescerà sempre di più, e quindi ci sono tantissimi dati. Il fatto di associare questi dati alla parola open, aperto, aperti, cambia un po' gli scenari. Adesso cercheremo di capire che cosa questo significa. Parecchio tempo fa, qualche mese fa, io poi penso e ci metto un po' di tempo prima di decidere, Massimo Fubini mi disse: dovresti parlare di Open Data, ed eccoci qua, però è passato molto tempo. Ciao Massimo, bentornato. Ciao Enrico, ciao a tutti. Massimo Fubini, amministratore delegato di Contact Lab, e nella sua attività deve studiare molto le dinamiche della rete, e questo argomento degli Open Data è un argomento che tu, insomma, più di una volta mi hai detto è interessante, è importante. Allora, diciamo in due parole di che cosa stiamo parlando. Parliamo appunto di dati aperti nel senso riutilizzabili da chiunque, senza costo, senza problematiche legate al copyright. Parliamo di qualunque tipo di dato, ovviamente, ma in maniera particolare ci riferiamo a dati della pubblica amministrazione, dati che possono essere raccolti da ministeri, quindi a livello centrale, oppure a livello locale. Possono essere dati di traffico, dati di geolocalizzazione, dati sanitari, dati di controlli di polizia, qualunque tipo di dato che tipicamente non ha ragione per essere riservato o secretato e non ha tipicamente delle problematiche legate alla privacy, che ovviamente lo renderebbero non fruibile pubblicamente. Perché tu dici che questo è un tema importante, e tra l'altro è anche un tema di cui si sta cominciando a parlare? Stiamo parlando di una cosa abbastanza nuova, allora forse probabilmente per gli addetti ai lavori non è una cosa nuovissima, però per il grande pubblico questa è una cosa... Immagino che molti dei nostri ascoltatori abbiano forse oggi più che in altri giorni un po' di difficoltà a fare delle domande sugli open data. Parlando di open data in sé per sé, uno in effetti può chiedersi: ma dopo tutto perché mi interesserebbe poter avere accesso a questo tipo di risorse? In realtà per determinati tipi di dati la risposta del dire non mi interessano è effettivamente vera, ma per molti altri dati in realtà ci sono dietro delle implicazioni estremamente interessanti. Guardandolo da un punto di vista molto elevato, è una questione di democrazia, in particolare della riduzione delle asimmetrie informative, ovvero la possibilità di essere effettivamente a conoscenza di cose per poter prendere delle decisioni corrette. Quindi il primo elemento è: più ho possibilità di sapere e di poter accedere a questo tipo di dati, più posso prendere un qualunque tipo di decisione in maniera più tranquilla, sapendo di aver avuto accesso a tutte quante le informazioni, ovviamente. In secondo luogo, la possibilità di avere tutto questo tipo di informazioni, oltre a rendere più trasparente la pubblica amministrazione, se dati della pubblica amministrazione si tratta, dà anche la possibilità in maniera più o meno creativa, di sviluppare delle applicazioni e di creare dei mercati che possano anche servire al settore privato, quindi delle applicazioni che si basino su dei dati aperti per poter dare dei nuovi servizi. Vedremo qualche esempio. Sì, quando parli di applicazioni parliamo proprio di app da mettere sullo smartphone o... Parliamo di applicazioni in generale, che possono poi avere un'interfaccia mobile, e tipicamente ormai quasi tutte le applicazioni hanno anche un'interfaccia mobile, perché la quantità di persone che accede alle informazioni via mobile è in crescita incredibile, e non solo in crescita incredibile, ma ha già dei numeri assoluti di grandissimo rilievo. Quindi sì, effettivamente alcune di queste applicazioni, soprattutto quelle che riguardano dei dati georeferenziati, nascono con un concetto di app, in modo tale che qualcuno in maniera mobile, da telefono mobile, si possa collegare e vedere queste informazioni. Saluto Lorenzo Benussi, che è ricercatore presso il consorzio Topics di Torino e da qualche mese assistente del consigliere per l'innovazione del ministro Francesco Profumo. Benussi, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. Anche Lorenzo Benussi oggi è collegato via Skype. Tra l'altro, visto che tu poi continuerai una sessione, forse anche in video, passi buona parte della giornata su Skype oggi. Sì, contando che sabato pomeriggio hai due figli, non so se sia una buona cosa questa. Sì, non è una buona, potrebbe essere, esatto. Però insomma, ti ringraziamo per la disponibilità, sì, per stare con noi oggi, per parlare di Open Data. Tu, visto che prima io dicevo, questo è un argomento nuovo, per te e diciamo per gli addetti ai lavori mica tanto, o no? Ma diciamo che si parla di Open Data dal 2009 sostanzialmente, soprattutto negli Stati Uniti, e poi gradualmente nel 2010 in Europa, e dall'anno scorso diciamo che è un argomento abbastanza trattato anche in Italia, sì. Comunque è nuovo, ecco, sicuramente. Esatto. Tu ti occupi di Open Data in che ambito? Ma allora, io appunto sono sostanzialmente dal 2009 che mi occupo di Open Data a vario livello. Innanzitutto con la Regione Piemonte ho partecipato alla realizzazione del primo portale italiano di dati, che è appunto sostanzialmente un sito internet che raccoglie i dati di un'amministrazione e li mette a disposizione per il riutilizzo. E poi ultimamente appunto mi sto occupando dell'agenda digitale in generale, e in particolare di Open Data all'interno dell'agenda digitale. Anche questo è un tema che ha più risvolti sia sull'e-government che sull'e-commerce, che sulle infrastrutture, che sull'alfabetizzazione, sulle scuole. E sto organizzando un concorso, e questo magari può interessare anche gli ascoltatori, un concorso per idee e per applicazioni che utilizzino questi dati, proprio per cercare di raccogliere degli esempi di utilizzo dei dati, che sono il modo migliore per spiegare poi il significato del modello, credo. Esatto, tra poco infatti faremo degli esempi. Il concorso a cui tu fai riferimento è Apps for Italy, giusto? Esattamente. Perfetto, magari parliamo più nel dettaglio anche di questo. Adesso sono le 16:15 minuti, visto che è già un weekend di bel tempo, ci saranno persone che si spostano su strade e autostrade. Sentiamo qual è la situazione. 2024. Riprendiamo questa puntata dedicata in parte agli open data, o open data come si dice in inglese. Oggi devo dire che è una puntata forse quasi casualmente dedicata tutta alla trasparenza, potremmo utilizzare questo termine come filo conduttore. Vi ricordo che al termine della nostra puntata troverete il file MP3 della nostra trasmissione all'interno del servizio podcast di Radio 24. Dunque, Massimo, facciamo degli esempi per capire, insomma abbiamo un po' spiegato di che cosa stiamo parlando, però scendiamo proprio nel pratico, che cosa ci si può fare? Ma io posso partire da proprio qualche esempio specifico negli Stati Uniti, visto che sono un pochettino più avanti rispetto a noi. Uno dei primi progetti di Open Data negli Stati Uniti riguardava la pubblicazione, tra le altre cose appunto georeferenziata e fruibile attraverso un'app, della mappa dei crimini all'interno delle varie città. Questo con l'obiettivo di poter informare le persone di qual era il tasso di rischio che avrebbero avuto andando fuori a cenare in un posto piuttosto che un altro. Ovviamente stiamo parlando di realtà molto diverse rispetto al contesto italiano, però è un primo esempio, e su questa falsa riga ne vorrei dare un altro, sempre in una logica di trasparenza verso il pubblico. Hanno pubblicato ugualmente l'elenco di tutte le analisi che sono state fatte sui locali pubblici da un punto di vista sanitario, quindi l'equivalente, come dire, delle ispezioni dei nostri NAS, in poche parole. Questo dava l'opportunità ovviamente di poter andare al ristorante e verificare se in quel determinato posto c'era stata qualche magagna. C'è una specie di guida dei ristoranti che già esiste, ma basta metterla assieme. Diciamo che invece che le stelle Michelin erano un altro tipo di stelle a cui fare attenzione, ovviamente. Questi sono degli esempi tutto sommato banali, non c'è niente di straordinariamente importante. Magari qualcuno non esce più di tanto a pranzo o a cena e quindi gli interessano poco, ma in realtà è semplicemente un esempio. Devo dire che una illuminazione per quello che riguarda gli open data mi è successo parlando un po' di tempo fa a margine di un convegno. C'era una persona che si occupava di sistema sanitario in Italia, in questo caso, e si parlava di open data e diceva: noi abbiamo molti dati, però abbiamo anche un attimo delle remore determinate volte a poter pubblicare questo tipo di dati. Io, un pochettino incuriosito e altro, ho provato ad approfondire, e l'esempio è stato illuminante e inquietante al tempo stesso. In breve mi diceva: vedi, noi abbiamo delle statistiche su delle operazioni chirurgiche tra virgolette assolutamente banali, dove non è che ci possano essere complicazioni di alcun tipo, quindi mentre in determinati casi effettivamente ci possono essere, l'esito dipende da tantissime variabili, su determinati tipi di operazioni, faccio un esempio, l'appendicite, adesso non so se ne faccio, sì. È abbastanza semplice, si vede ovviamente quella che è la capacità ad operare. Bene, abbiamo dei contesti, degli ospedali, dove il tasso di mortalità per questo tipo di interventi chirurgici è dello 0,2%, 0,3 in qualcun altro, 0,4 in qualcun altro. Diciamo trascurabile. La media, sì, è complessivamente dello 0,5. E facciamo poi degli esempi, giusto? Assolutamente, assolutamente. Esempio, sì. E poi abbiamo dei casi dove questo tasso è del 4%. È evidente che pubblicando questo tipo di dati succederebbe, tra virgolette, una rivoluzione, nel senso che nessuno si fiderebbe più di andare in quel determinato ospedale, quantomeno riguardo a quel determinato tipo di operazione. Ecco, io vedo in questa trasparenza informativa veramente la possibilità di fare un passo avanti a livello di cittadinanza attiva. Sì. Lorenzo, per pubblicare questi dati deve cambiare la mentalità, visto che parliamo soprattutto di pubblica amministrazione, la mentalità all'interno della pubblica amministrazione, o è un problema legislativo, cioè devono essere approvati dei regolamenti per far sì che questi dati vengano pubblicati, anche se in realtà di trasparenza amministrativa parliamo da anni, quindi immagino che molti di questi dati siano già disponibili. Sì, allora la differenza tra rendere accessibili i dati della pubblica amministrazione e il modello open data si basa principalmente sulla possibilità di riutilizzare i dati. E questo è l'aspetto, se vogliamo, più importante, perché si è parlato e si parla spesso di accesso alle informazioni, molto spesso l'accesso è un diritto. Negli Stati Uniti abbiamo il Freedom of Information Act, che sancisce questi diritti del cittadino, e mi sembrano assolutamente sacrosanti. Open Data mette a disposizione i dati per utilizzarli, come si diceva prima, per utilizzarli per fare applicazioni, per fare inchieste. E in Italia non è tanto un problema di norme. Io credo che le leggi, il codice dell'amministrazione digitale, in generale la normativa in materia sia buona e indichi chiaramente la trasparenza come un valore. Forse è un problema più di mentalità, o quantomeno di seguire questo nuovo modello, che vuol dire accettare i propri dati online, accettare che le persone li controllino, li mettano a paragone uno con l'altro ed eventualmente, questo sarebbe anche qualcosa di estremamente virtuoso, comunichino delle correzioni, per cui instaurino con la pubblica amministrazione un rapporto per avere una base di conoscenza aggiornata e condivisa, ecco. Sì, probabilmente bisognerebbe far sì che l'organizzazione della pubblica amministrazione in primis, in particolare, sia fatta in modo che i dati nativamente, cioè quando nascono, siano già pronti per essere pubblicati. Esattamente, esattamente. Il concetto sarebbe arrivare a dei sistemi informativi che tengano in considerazione anche un certo tipo di trasparenza verso l'esterno. Sì. Molto spesso non è così oggi, ma è giusto che non sia così, perché fino ad oggi non si era mai posto il problema. I sistemi sono criptici perché i dati sono legati a dei procedimenti, i procedimenti sono legati a delle amministrazioni, i sistemi non si parlano tra di loro. È un po' come il web, bisognerebbe riuscire a creare un meccanismo in cui questi dati siano facilmente linkabili e diventino facilmente disponibili per le persone anche per il riutilizzo. Sottolineo questa cosa perché sul riutilizzo c'è anche un grosso valore economico. Questi dati sono un enorme business, un enorme asset che lo Stato può dare ai cittadini e in un momento di crisi come questa credo che non faccia male, insomma. Sì. Senti, oggi in Italia, poi parliamo anche del concorso, oggi in Italia sta nascendo qualche cosa che arriverà ad essere disponibile ai cittadini o c'è già qualche cosa di strutturato, utilizzabile facilmente? Sì, ci sono vari portali, diciamo, non moltissimi paragonati ad altri stati, però comunque stanno nascendo velocemente, in cui si possono trovare questi dati. Ne cito alcuni, c'è il portale della Regione Piemonte, il portale nazionale DatiGov, il portale dell'Emilia Romagna, della Lombardia, ci sono città come Firenze o Settimo Torinese o Udine che hanno alcuni dati online. Torino ha recentemente aperto il suo portale, insomma i dati cominciano ad essere disponibili. L'Istat ha fatto una grossa operazione di rilascio dei dati tra i primi, esistono anche delle compagnie private come Enel che hanno cominciato a mettere a disposizione questi dati. Diciamo che l'Italia fino all'anno scorso era molto indietro su questi temi e poi per una serie di motivi, tra cui non ultimo il fatto che l'ex ministro che si occupava di queste cose, cioè Brunetta, decise di lanciare la strategia Open Data nell'ottobre scorso. Per cui per tutta una serie di motivi un po' scomposti, un po' polarizzati in regioni, comuni, eccetera, eccetera, però l'Italia comincia ad avere effettivamente dei dati a disposizione. È chiaro che rispetto a stati come l'Inghilterra e gli Stati Uniti soprattutto, è necessario probabilmente accelerare o quantomeno rendere questa politica strategica all'interno di un tema assolutamente strategico e sempre più strategico che è quello dei sistemi informativi pubblici. Sì. Bene, adesso ci fermiamo per qualche minuto, c'è la pubblicità. 2024. Le 16:29 minuti, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, come la tecnologia ci semplifica la vita, ci cambia la vita e oggi parliamo proprio di un tema che è destinato a cambiarci la vita, a semplificarci la vita. E poi faremo anche degli inviti alle aziende perché parleremo di un concorso che è stato lanciato per creare delle app proprio utilizzando questi dati che vengono messi a disposizione. È con noi Massimo Fubini e Lorenzo Benussi. Dunque Massimo, questi dati sono dati incomprensibili all'umano, cioè comprensibili alle macchine, o sono proprio dati, che ne so, testi anche, cioè comprensibili alla gente? Se io vado su questi dati che prima Lorenzo, su questi siti che Lorenzo ci ricordava, capisco. Ma ovviamente dipende quali sono questi dati. Tipicamente qualunque tipo di dato è comprensibile all'umano e nello stesso tempo leggibile dalle macchine, ovvero molti dei dati di cui stiamo parlando sono dei dati strutturati, quindi delle tabelle, dei fogli di Excel dove non è molto difficile ovviamente leggerli da un punto di vista umano. L'importante in questo caso è che siano leggibili e gestibili anche da una macchina in maniera automatizzata e continuativa nel tempo, e questo apre anche il concetto di uno standard eventualmente, perché ci potremmo trovare nel caso in cui determinate pubbliche amministrazioni vogliano rilasciare i dati di entrata delle macchine nel centro storico, quindi l'area C di Milano piuttosto che altre aree, e magari qualche amministrazione le fa in un formato, qualcun altro le fa in un altro, mettendo alcuni dati piuttosto che altri. Quindi questi dati non sarebbero nativamente aggregabili tutti quanti se non facendo prima una piccola trasformazione. Altri dati invece sono meno strutturati, possiamo parlare ad esempio delle delibere dei consigli comunali, dove magari c'è qualcuno che le ha dattiloscritte e rese in forma digitale, e di sicuro non è un dato strutturato e gestibile in maniera meccanica, ovviamente. Quindi in funzione della tipologia di dato questo può essere più facilmente letto da un umano e meno facilmente da una macchina, questo è il caso appunto delle delibere, più facilmente letto e interpretato da delle macchine e meno facilmente gestibile da un umano nel caso di grandi moli di dati. Sì, recentemente parlavo con una persona, con un ingegnere che lavora a Berlino, si occupa dei servizi transit di Nokia, che sostanzialmente ti suggeriscono quale mezzo pubblico prendere quando ti trovi in una città, quindi tutto collegato con le mappe, e mi diceva che ci sono nel mondo tanti, non li chiamerei standard, però tante modalità di erogazione di questi dati, quasi quante sono le società pubbliche che operano tram, bus e metropolitane. Lorenzo, sono necessari gli standard o no? O è un falso problema? No, beh, sarebbe molto necessario proprio per fare quel lavoro di comparazione che dicevate prima. Immaginiamo, i trasporti sono un ottimo esempio, immaginiamo queste applicazioni per cui io la mattina esco di casa, accendo il cellulare sa dove sono, mi dice quali sono i mezzi pubblici vicini a me e in tempo reale quando stanno arrivando, aiutandomi perciò a massimizzare i tempi e anche incentivando alla fine l'utilizzo dei mezzi pubblici. Certo, dicendomi se sono in ritardo, se c'è traffico, eccetera, eccetera. Esatto, magari la mattina ti avverte il telefonino quando devi uscire, perché sa che ci metti, non so, 5 minuti, 7 minuti ad arrivare alla fermata e che l'autobus in tempo reale sta arrivando. Addirittura si immaginano soluzioni per cui io cammino e chiamo l'autobus sul cellulare, il cellulare sa dove sono, lo comunica all'agenzia dei trasporti, l'agenzia aggrega delle domande e fa fare dei percorsi customizzati. Immaginiamo cose di questo tipo nel futuro, per cui è molto importante che ci siano degli standard, e in questo caso è importante che le partecipate pubbliche capiscano che quei dati sono un bene di tutti e che è giusto condividerli, chiaramente perché sono una fonte di servizi molto, molto interessanti. È un po' questo il punto: noi i dati siamo noi in un certo senso, pensiamo all'anagrafe, i dati li abbiamo pagati nella maggior parte dei casi attraverso la fiscalità generale, sono, io credo, un diritto, debbano essere un diritto di tutti, perché creano trasparenza, come abbiamo detto. Basti pensare agli articoli di giornale sull'evasione fiscale, no? La letteratura che c'è in Italia sull'evasione fiscale, pensiamo cosa si potrebbe fare se ci fosse un po' più di organizzazione dell'informazione e di trasparenza. Per cui i dati sono un diritto, io credo, alla fine. Molto chiaro. Allen ci chiama da Pordenone al nostro numero verde. Benvenuto, buongiorno. Sì, Enrico, buongiorno. Prego. Allora, prima la cosa più veloce. Per quanto mi riguarda, io fungo da virus, nel senso che già da 10-12 anni tutti i miei dati formato Office li scambio con gli amici in formato Open. Poi si lamentano perché Microsoft non li legge, io dico vi scaricate LibreOffice o OpenOffice, sono leggibili e fra 50 anni li continueremo a leggere. Primo. Secondo, la cosa più importante, ho postato anche il link su Facebook 10 minuti fa. Parlavate di pubblica amministrazione, in Friuli è successo una piccola confusione che però sono solo gli addetti. Chi interessa va sul vostro sito Facebook e trova il link. Sì. Gazzettino 2 marzo 2012, non ve lo leggo, ve lo leggerete, praticamente ci sono dei dati pubblici riguardanti le strade, la viabilità delle strade, la manutenzione, eccetera, che sono tutti dati di ANAS eccetera, che devono essere tenuti per legge, la provincia deve distribuirli alla regione, ma non lo può fare perché sono in formato chiuso di un'azienda, la Dererum Natura di Pesaro, che non li vuole distribuire salvo dietro compenso. Questo è un grande classico. È, sì, sì. Sono andati in tribunale e la prima il primo grado, grazie Enrico, il primo grado l'ha vinta la Software House. Sì, sì, quindi, sì, sì. Adesso dati pubblici di tutti, pagati con soldi pubblici, però bisogna pagare ancora perché non sono in formato open. Sì. Chiarissimo, grazie. Allora, noi abbiamo parlato di open source, di riutilizzo di software all'interno della pubblica amministrazione, perché tutto vero quello che diceva Alan, sono soldi pubblici investiti, questi devono essere in formato leggibile aperto. Però vorrei che Lorenzo, mi è caduta la penna, scusate, vorrei che Lorenzo però ci chiarisse, perché forse stiamo facendo confusione tra open source, quindi software e formati open source, e open data, che sono due cose forse parenti ma diverse. Sono sicuramente parenti, e la differenza è che quando parliamo di open source o di free software, perché se mettiamoli sempre insieme, parliamo sostanzialmente di programmi, per cui della capacità di condividere programmi, di fare programmi per laboratori, software, e di condividerli secondo determinate regole definite da un determinato numero di licenze sostanzialmente. Con gli open data parliamo di dati, per cui non più di programmi. C'è una grossa differenza, il programma richiede un grosso intervento, no, di un umano che se lo inventa, mentre invece i dati sono dell'anagrafe, sono raccolti perché esiste l'anagrafe, qui sono proprio due oggetti abbastanza diversi. Però come nell'open source, anche negli open data, per renderli disponibili è necessario utilizzare delle licenze, cioè dei contratti che dicano che chiunque li può utilizzare per qualunque scopo senza pagarli, eccetera. Sono due fenomeni parenti molto simili. Io ho studiato anche molto l'open source nella mia vita, però sono sostanzialmente differenti. Gli open data riguardano molto spesso i dati governativi, che, come dicevamo prima, sono prodotti dalle istituzioni pubbliche. Ecco, insomma. Sì, per diciamo, tornare al discorso che faceva prima Allen, giusto per farci capire fino in fondo, uno potrebbe anche pubblicare gratuitamente, permettendo il riutilizzo dei dati che sono su formato Word, punto doc. Certo, sì, quindi. Sì, anche tipicamente succede con Excel, le tabelle, esatto. Di Excel, non è il meglio, non è la cosa migliore, sarebbe meglio sempre utilizzare formati open per evitare che succeda quello che appunto raccontava prima il signore, però uno può anche tranquillamente mettere a disposizione dei dati con delle tabelle Excel e fa open data, insomma. Sì, sì, chiarissimo. Dunque, Apps for Italy, però prima dell'Italia, volevo, Massimo, tu ci volevi fare un esempio di una cosa che sta succedendo, non so dove, a New York, Washington, Los Angeles, San Francisco? Sì, devo dire che al di là di essere non tantissimi, però già un discreto numero di persone, e i tweet che si vedono in questo momento con l'hashtag Radio 24 fanno vedere che ci sono diverse persone interessate agli open data, ci sono alcune pubbliche amministrazioni che cercano di far partire un circolo virtuoso, ovvero nel momento in cui pubblicano dei dati fanno anche dei concorsi affinché con questi dati vengano create delle applicazioni. Al di là del caso italiano, di cui ci racconterà chi ne sa molto di più di me, ovviamente un caso molto interessante e abbastanza contemporaneo, visto che il vincitore verrà decretato fra un paio di settimane circa, se non sbaglio il 17 di aprile, è proprio quello della città di New York, che ha pubblicato un vasto numero di dataset, quindi di database accessibili al pubblico con questi dati, e che ha creato un contest con dei premi in denaro per andare a premiare coloro che fanno le applicazioni migliori da un punto di vista ovviamente di uso sociale e altro con questi dati. Bene, ecco Lorenzo, invece Apps for Italy che cos'è? Allora, Apps for Italy è esattamente quello di cui stavate parlando, cioè un concorso in cui tutti possono partecipare e proporre la loro idea o applicazione. Attenzione, sottolineo idea, perché di solito questi concorsi si fanno sulle app, cioè su quelle robe che vanno sui telefonini o sul computer e danno sostanzialmente, erogano dei servizi. E Apps for Italy è anche questo, e ha un montepremi di 45.000 euro, ci sarà una cerimonia di premiazione a cui parteciperanno grossi player industriali, ci sarà il ministro dell'istruzione Profumo e i vincitori potranno, credo, avere una giusta visibilità. E la caratteristica di Apps for Italy però, che forse interessa a tutti noi, è che si accettano anche delle idee, perché in Italia fino a poco tempo fa, come dicevo, non avevamo molti dati, e io credo, e tutti noi insomma crediamo, che sia importante raccogliere esempi, per cui anche l'idea di un normale cittadino che non ha le competenze tecniche per sviluppare realmente un'applicazione, ma che ha magari presente un ottimo problema che riguarda tutti noi e un'ottima soluzione, anche questo normale cittadino possa presentare la sua idea ad Apps for Italy, vincere eventualmente e vederla realizzata, perché poi è chiaro che è probabile che le idee migliori, le 5 idee migliori, trovino poi i canali per essere realizzate. Ci puoi fare degli esempi, anche non di cose già realizzate, però altri esempi di quello che si potrebbe fare? Ad esempio, a me viene in mente se tutti i dati cartografici che tutte le pubbliche amministrazioni hanno a disposizione fossero messi online, una persona competente, un'azienda che è capace di costruire un'applicazione, un software, potrebbe fare delle mappe basandosi su questi dati, ad esempio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tutto quelli che sono elenchi e mappe. Adesso, per esempio, io ho partecipato a un laboratorio, molto spesso si fanno anche dei laboratori su queste cose in giro per il mondo. Noi l'abbiamo fatto qui a Settimo Torinese, in cui con dei cittadini e dei ragazzi sviluppi delle idee che risolvano dei problemi. E il cui risultato sia un'applicazione, e si stava ragionando sulle farmacie. Pensiamo a un'applicazione che mi dica esattamente dove sono, in qualunque parte d'Italia, dove sono le farmacie, quando sono aperte, soprattutto durante il fine settimana, quelle che sono disponibili. Questo sarebbe un bel servizio. Ci sono cose molto simili, però potrebbe essere una cosa interessante, come tutto quello che riguarda i trasporti, per cui sapere le linee dell'autobus piuttosto che le piste ciclabili, le stazioni di bike sharing, eccetera. In generale credo che tutto ciò che riguarda la gestione, tra virgolette, delle code sia un elemento molto sensibile per tutti quanti, quindi così come si parlava dei trasporti, il sapere se alla postazione del bike sharing vicino ci sono biciclette oppure no è un dato che effettivamente può essere molto utile, così come i dati delle classiche code negli uffici pubblici, quando uno arriva e si trova davanti 200 persone un giorno e magari in un altro giorno se ne trova 15 o 20. Quindi la possibilità di avere in tempo reale questi dati, esattamente come si hanno in tempo reale dei dati del traffico, e ci permettono di scegliere la rotta migliore. TomTom ci ha fatto anche un business su questa cosa, giusto per dare un'informazione. I dati del traffico di determinati navigatori non vengono basati sulla base, come dire, di osservazioni fatte da una persona piuttosto che un'altra, ma da osservazioni automatizzate delle celle telefoniche che vedono il flusso dei cellulari lungo le strade. Quindi sì. Se lungo un'autostrada un cellulare, anzi un insieme di cellulari, si muove a una velocità elevata, vuol dire che il traffico è scorrevole. Se all'interno della 1 si muovono a 5 km all'ora in mezzo all'autostrada, significa che c'è un problema. Attenzione, lo ricordiamo, sono dati anonimi che vengono raccolti in massa, cioè non vi preoccupate, non è che vi tracciano. Assolutamente, questi dati sono completamente anonimizzati e stanno dicendo che X cellulari si stanno muovendo a una certa velocità. Dunque, prima Lorenzo mi sono distratto un attimo perché stavo cercando la notizia di qualche giorno fa, 29 marzo. A proposito di farmacie, dobbiamo dare atto alla Regione Lombardia di aver fatto un'app per le farmacie. Allora, a parte che secondo me bisognerebbe fare delle app che comprendono più cose, ma magari su questa app verranno costruite altre cose. L'applicazione si chiama In Lombardia e per il momento è solo per iPhone e iPad, speriamo che arrivi anche per Android, infatti la regione insomma ci tiene a precisare che a breve sarà disponibile la versione anche per Android, ed è un'app che ci permette di sapere quali farmacie sono aperte, dove sono aperte, e tutto ciò fa parte del programma Agenda Digitale della Lombardia e del portale Open Data della Lombardia, che è dati.lombardia.it, giusto per fare un esempio pratico di quello che esiste già. Sono le 16:45 minuti, abbiamo gli ultimi 10 minuti di trasmissione, ci risentiamo dopo le notizie del traffico. 2024. Ultima parte di 2024, troverete il file MP3 della nostra trasmissione sul nostro sito internet. Dunque, una cosa che mi segno tutte le settimane, ma poi non riesco mai a farlo, volevo ringraziare tutte le persone che nel corso di questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, hanno lasciato commenti per lo più positivi su iTunes. Visto che iTunes nel corso degli anni è diventata la piattaforma di riferimento anche per il podcast, perché c'è una vetrina molto ben fatta in cui si possono scegliere i programmi, e fortunatamente 2024 è sempre ben messo in classifica, soprattutto nei primi giorni della settimana, insomma dopo il weekend uno fa il download, ci sono molti ascoltatori che fanno un commento, allora li ringrazio e anzi vi invito a fare commenti, se sono positivi meglio, insomma, però accettiamo un po' di tutto. Dunque Lorenzo, concludendo, visto che abbiamo parlato di applicazioni che possono anche creare un vero e proprio business, domanda, si può fare business partendo dagli open data? Sicuramente sì, ma ci sono degli esempi, non so se avete notato, però siamo stati abbiamo lasciato la linea in questa trasmissione due volte per informazioni sul traffico. Sì. Tutto quello che si basa sulle informazioni sul traffico possono essere open data, come dicevamo prima. No, però mi chiedo, la domanda è, visto che uno dei principi degli open data è che possano essere riprodotti e quindi liberamente distribuiti, poi uno può utilizzarli però per crearci un business vero e proprio? Cioè è legale questo? Sì, assolutamente sì, perché poi il valore è nell'aggregazione dei dati. Io prendo dei dati differenti, e appunto i dati geografici piuttosto che i dati sui parchi giochi, c'è un'applicazione carina negli Stati Uniti che è la mappa delle mamme, e sostanzialmente sul telefonino ti dice dove sono i giardini con i giochi più vicini, quali sono nei dintorni negozi che hanno alcune attenzioni per i bambini, ristoranti piuttosto che bar, e attraverso, per cui un mix tra informazione pubblica e informazione privata, dà un servizio alle mamme e fa anche pubblicità a quei luoghi che hanno qualcosa sostanzialmente da offrire ai bambini. Sì. E questo è un esempio molto semplice, però secondo me anche carino, di una galassia di applicazioni basate sui dati che possono effettivamente avere dei modelli di business legati sostanzialmente alla gestione di questi dati. Sì. Senti, sono più avanzate le pubbliche amministrazioni locali o la pubblica amministrazione centrale? Cerca di essere onesto, perché tu hai un ruolo importante all'interno del Ministero dell'Innovazione, Istruzione, Università, e quindi insomma potresti tendere a dire che la pubblica amministrazione centrale negli ultimi mesi si è sicuramente svegliata. Ma no, guarda, in realtà no, assolutamente non c'è una, è difficile fare una classifica, anzi tendenzialmente direi, visto che ho partecipato alla creazione del primo portale, che è quello piemontese, direi che quello piemontese è il più avanzato volendo, ma non è così, perché c'è anche Firenze, hanno fatto uno splendido lavoro, la Lombardia che citavi prima è partita alla grande da poco, e d'altra parte la Camera ha un bellissimo portale a livello di amministrazione centrale, il MIUR ha cominciato a rilasciare dei dati, sono dei livelli diversi. In Italia direi che la media si sta alzando velocemente. È chiaro che l'amministrazione centrale ha dei dati molto rilevanti, molto spesso ti permette di fare delle analisi molto approfondite e vaste anche a livello geografico, d'altra parte però il comune ha quei dati che sono più vicini a te, come i rifiuti piuttosto che i trasporti, per cui io credo che, anzi sono un convinto sostenitore di una specie di autonomia a livello delle differenti amministrazioni, cioè l'importante è che dal comune alla provincia, alla regione, ai ministeri si cominci a rilasciare questi dati, e poi il problema sarà ovviamente organizzarli, creare un livello di metadatazione, si dice, qualcosa che permetta di metterli insieme, però sono convinto che l'importante sia cominciare a rilasciare i dati. Sì. Anche perché se questi dati non ci sono, è difficile coinvolgere la popolazione per risolvere i problemi di tutti, che poi è questo il vero fine, cioè coinvolgere la gente, dare uno strumento in più alla gente per risolvere i problemi quotidiani. Esatto, visto che ci sono elezioni imminenti in Italia, uno potrebbe dire: i cittadini che cosa possono fare? Beh, sicuramente molti candidati faranno degli incontri pubblici. Beh, andare a questi incontri e porgli ad esempio una domanda su che cosa pensano degli open data. Probabilmente alcuni faranno scena muta, ma anche questo, insomma. Ma io direi che si potrebbero utilizzare i dati pubblici della Camera per vedere quanti giorni sono stati alle votazioni, certo, o che cosa hanno proposto come disegni di legge o altro, prima ancora di chiedergli che cosa ne pensino degli open data. Certo. Lorenzo, prima di salutarci, un'ultima, visto che tu ti occupi anche, insomma, di agenda digitale, quali sono le prossime scadenze? Ci fai un update? Ma allora, fra poco dovrebbe essere online il sito dell'Agenda Digitale, dove verranno date un po' di informazioni e si attiveranno dei canali di discussione con il pubblico, che sono molto importanti, e speriamo che anche in Italia questa diventi una pratica diffusa, insomma. L'idea è, in brevissimo, prima dell'estate, che ci sia un pacchetto di norme, Digitalia si dovrebbe chiamare, con un nome molto evocativo, che aiutino e spingano il digitale in Italia. Ce n'è bisogno, credo. Sì, e noi lo diciamo tutte le settimane, insomma. Però insomma, ringraziamo in modo particolare per il lavoro che fai anche al Ministero. Buon lavoro, buon weekend prima di tutto, ma poi buon lavoro, a presto. Grazie, buon pomeriggio a tutti, ciao. Bene, grazie a Lorenzo Benussi per essere stato con noi in questa puntata di 2024. Grazie anche a Massimo Fubini, che sta guardando Twitter. Tu sei un grande utilizzatore di Twitter? Sono un buon utilizzatore passivo, tra virgolette, nel senso che lo leggo molto perché è una fonte di informazioni e di spunti rilevantissima, ma tutto sommato twitto abbastanza poco. Mm-hmm. Questo è un messaggio che voglio lanciare, perché molto spesso la gente è un po' impaurita nell'uso di Twitter, perché dice: ma io cosa ho da dire? Oppure non ho voglia di raccontare i fatti miei. Ma non necessariamente l'uso di questa tecnologia deve essere bidirezionale. Uno può tranquillamente leggerla e guardarla esattamente come vede la televisione o ascolta la radio, senza avere la necessità di dover per forza intervenire. Esatto, anche io faccio così, non twitto molto. Comunque, visto che gli ascoltatori lo chiedono su Facebook, poi lo scriverò anche su Facebook, cercatemi Enrico Pagliarini, comunque, _Pagliarini. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie a Fabio Cantadore che si è occupato della parte tecnica, Anita Panizza in redazione. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio per averci chiamato, aver scritto e anche, insomma, tutte le email che ci invierete durante questa settimana. Massimo, a presto, buon lavoro. Grazie Enrico, arrivederci a tutti. Tra poco sarà disponibile la versione podcast del nostro programma. Ci sono le notizie di GR24, a seguire lo sport. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024.